ho trovato in rete una storia. Veniva da un'attivista che era stata a salvare Rospi. La sua lettera raccontava questo. Dal crepuscolo, proprio quando le strade si fanno più transitate per il ritorno a casa degli umani, i rospi iniziano la loro migrazione amorosa verso l'acqua. Non sanno delle strade, delle macchine. Seguono la loro stella polare e restano schiacciati, feriti, morti. Il mio capo WWF mi ha consegnato un secchio e una lampada. Mi ha assegnato un pezzo di strada da percorrere avanti e indietro da una parte all'altra. Scopo: impedire ai rospi di attraversare la strada. Molti li abbiamo salvati. Alcuni sono rimasti sull'asfalto. Il rospo è un animale gentile, lento. Si guarda intorno, ti guarda, resta immobile, seduto sull'erba, come una bella statuina. La testa eretta a scrutare in sé quella voglia indomabile che lo spinge a ricercare l'accoppiamento. Le mani nude lo afferrano e lui si fa prendere. Si muove appena, non riesce a fuggire. È gelido come un cubetto di ghiaccio. Una piccola vita, persa nel paesaggio notturno. Per molti insignificante, per altri ripugnante, per noi straordinaria. Li depositiamo nel secchio alto e stretto dal quale non possono scappare. E loro cantano con una voce flebile, ripetono un richiamo. Di paura? Non lo so. Ma è una paura che durerà poco, perché alla fine della raccolta i rospi e le rospe saranno portati allo stagno vicino e liberati. Si accoppieranno, deporranno le loro uova, nasceranno i rospetti. E la natura cercherà affannosamente, nonostante noi umani, il suo equilibrio. Un'esperienza magica, un'avventura interiore indimenticabile. Ecco, ho voluto leggervi questa lettera che, quando mi capitò, mi colpì tantissimo e decisi che un giorno anch'io sarei andata a salvar rospi. E quest'anno c'è stata l'occasione giusta. Il WWF ha iniziato il salvataggio dei rospi tutte le sere per 3-4 settimane con un giubbotto catarifrangente, quello dell'auto, una piccola pila e un secchio. La voce maschile che ascolterete è quella di Carlo Scoccianti, biologo, ambientalista, animalista, ecologista, direttore delle oasi Stagni WWF di Focognano e Val di Rose, situata nel comune di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Carlo è il coordinatore della campagna di salvataggio dei rospi alla quale ho preso parte. Siamo in macchina e stiamo facendo il punto della situazione. Il gruppo che è andato su ieri a Montepiano ha già trovato 26 coppie, ovviamente quindi animali in andata verso la zona riproduttiva e il laghetto, più una quindicina di femmine con le uova ancora sole che non hanno trovato il compagno. E contemporaneamente sono state trovate e aiutate a passare in senso inverso 22 femmine vuote che hanno già deposto le loro uova e quindi ora, libere diciamo da questa loro mansione, corrono e via velocemente e vanno verso la campagna. I maschi invece di solito si intrattengono di più delle femmine perché ovviamente sperano di trovare un'altra signora o signorina per continuare diciamo l'attività. In più naturalmente sono stati tolti dalla strada per evitare che fossero schiacciati alcune decine di maschi. E poi fra un po' di giorni, quando finisce tutto, immediatamente tutto viene abbandonato. Sia maschi sia femmine, tutti vanno via, perché ricordiamo che gli anfibi sono animali terrestri che sono legati all'acqua solo per riprodursi, e i girini invece, cioè le larve, di cui tecnicamente si dice larve, si sviluppano nell'acqua per circa un mese e mezzo a seconda delle condizioni di illuminazione, di acqua, di calore dell'acqua, di cibo da mangiare, così, e poi usciranno e anch'essi non torneranno più alla zona riproduttiva finché non saranno adulti in grado di riprodursi. In media si ritiene che un rospo, la specie bufo bufo, ci voglia in media 4 anni il maschio per diventare adulto e la femmina 5. Quindi cosa fanno in questo periodo? Stanno in giro nella nostra campagna quando è molto freddo d'inverno o è molto caldo d'estate, si infossano sotto tronchi, pietre, mucchi di foglie e vivono la loro vita terrestre. Poi, quando cominciano ad essere adulti, devono recarsi ogni anno a riprodursi. Ora, dovete sapere che questi animali fanno queste grandi migrazioni comuni, ma sono animali solitari. Quindi proprio questi punti focalizzano le migrazioni e gli animali quindi addirittura prendono la strada spesso, non solo l'attraverso, la prendono per arrivare più facilmente, perché come noi, no? Se c'è una strada un po' più lunga, dobbiamo arrivare in fondo alla valle, ma preferiamo quella piuttosto che saltare recinzioni, murette a secco, siepi, alberi, boschetti. No, lo stesso un animale come loro che vede molto meglio sulla strada anche il compagno o la compagna da trovare, e poi se la strada è vicina al lago, come in questo caso dove andiamo, addirittura stazionano lì per minuti e minuti, a volte ore, e così se passa una macchina è finita. Allora, questa super trappola, per molti motivi, è difficilissimo abbattere questo effetto, no? Bisognerebbe dislocare le popolazioni con altri laghetti o pozze, è un lavoro enorme da rifare. E comunque noi in certi casi, nel comune dell'Impruneta, nel comune di Pontassieve, abbiamo agito in passato creando questi stagni alternativi o sostitutivi e ovviamente sbarrando la strada con barriere anti-attraversamenti in modo che gli animali non vanno. Dove invece la strada è un po' rialzata e solo in quei casi si può fare sottopassaggi con le barriere che a invito, che senza non sarebbe utile, con le barriere che obbligano gli animali. E noi qui in Toscana abbiamo progettato, come WWF, proprio io come progettista, vari di questi casi, alcuni altri stanno per essere eseguiti dalla provincia di Firenze e addirittura vicino a Livorno, cioè in provincia di Livorno, vicino a Piombino, è stata rialzata una strada completamente bucata sotto per 220 metri, cioè tirata su come fosse un ponte autostradale per permettere un grande corridoio ecologico sotto, forse la più grande opera che sia mai stata fatta di questo tipo. E niente, il problema, diciamo, di fondo rimane che dove non si può agire con i sottopassi o le barriere, o comunque nelle prime fasi di studio di quanti animali c'è e di come fare, tocca essere lì con i volontari. Ci si dota di secchi, di lampade e semplicemente si fanno attraversare, cioè si levano dalla carreggiata. Con un minimo di esperienza, cioè basta dopo 10 minuti e uno è lì, si insegna a riconoscere i maschi dalle femmine, si insegna ovviamente dove portare, perché chiaramente si fa attraversare quelli in andata e si vede bene verso il laghetto riproduttivo, quelli in ritorno ovviamente verso il lato campagna. La cosa è molto bella perché ti consente è una delle poche azioni di conservazione, un'azione molto forte di grande importanza ecologica, ma anche prettamente di salvezza di individui, quindi molto anche animalista, perché te in pochi attimi della tua vita, in poche ore, puoi veramente salvare centinaia di animali dalla morte immediata se passa una macchina. Alla classica domanda che penso gli ascoltatori abbiano in testa, cioè: ma all'uomo che cosa servono gli anfibi? Che cosa rispondiamo? Io, da persona di scienza, no? Da biologo, innanzitutto rispondo che tutto ciò che in natura c'è oggi, a questo momento dell'era tarditale, quella dove siamo, tutto è utile. Cioè la natura, l'evoluzione cancella automaticamente ciò che non è utile, non a se stesso, a tutto il sistema. Quindi un rospo, come un insetto, come noi, eccetera, eccetera, che siamo un po' più, i più sprovveduti, noi non ci ricordiamo di questo equilibrio, però serviamo all'insieme, no? Finché non è, in questo caso personale dell'uomo, non esageriamo un po' troppo come stiamo facendo. Detto questo, comunque all'uomo dovrebbero stare anche molto simpatici, semplicemente perché per caso la loro funzione risulta utile direttamente, perché ti mangia le lumachine se c'hai l'orto, ti mangia un sacco di insetti, ti mangia un sacco di anche le zanzare volendo, e quindi tutto sommato non solo i rospi, tutti gli anfibi dovrebbero stare particolarmente simpatici, ma il loro ruolo, anche se non facessero questo, esiste e va naturalmente aiutato e conservato, insomma il loro ruolo va mantenuto per l'ecosistema generale di cui noi stessi facciamo parte. Siamo arrivati, abbiamo preso i secchi e le torce e in tre, con i nostri giubbottini catari frangenti, ci siamo avviate sulla strada. Purtroppo abbiamo subito trovato due rospi schiacciati. Vedi, per esempio, lì in fondo mi sembra ce ne sia uno. Loro attraversano la strada e a volte rimangono anche impigliati qui proprio ai lati. E l'attenzione nostra è rivolta anche, diciamo, in questi posti. Guarda, eccolo là. Lì. Ecco, c'è un rospone, ci sono due rosponi bellissimi, giganteschi, che si stanno arrampicando. Allora, cosa dobbiamo fare? Allora, questi qui verranno presi e verranno poi accompagnati dall'altra parte. Vieni. L'ho preso in mano. Sì, allora guarda. E ce n'ha sopra un altro. Questo è il maschio. Ha una specie di zaino. È una coppia. Quello nello zaino chi è? Allora, quello sopra le spalle è il suo uomo. Ah, il maschio sta aggrappato sulla schiena della femmina e si fa portare, tipo zainetta invicta. Sì, brava. No. Anche in natura, mio Dio, gli uomini si distinguono. No, ma loro così stanno teneramente abbracciati, mi spiegava Carlo. Sì. Così loro sono affettuosamente abbracciati. È un gesto amoroso. Ed è un gesto amoroso. Questa è una femmina che sta tentando di arrampicarsi, brava, non ce la fa. Pancia. È okay, ovviamente spaventata perché... Prendila per bene, ok, senza stringerla. Piegalo, ok, lascia, basta. Allora questa è una femmina, fammi vedere, sì, è una femmina e questa verrà poi, questa qui la lasceremo vicino alla rete dove poi raggiungerà al lago. Quindi questa femmina deve andare a deporre le sue uova, quindi anche verrà... Anche perché lei effettivamente la direzione te la indicava, lei andava verso il lago. Lei saliva sulla scarpata, ce l'aveva fatta ad attraversare la strada incolume. E quindi però ecco però in cima c'era una rete, quindi in cima c'è la rete, poi ce l'avrebbe fatta. No, ce l'avrebbero fatta, però per loro è molto difficoltoso perché il terreno è così costituito e in alcuni punti per esempio è difficilissimo riuscire a sorpassare questa parte di terreno e oltrepassare poi la rete. Due difficoltà, quindi un terreno a scarpata molto ripido che costeggia la strada e poi la rete. Sì. Questa è un'altra coppia. Piangono e mettono dei suoni. Fa sentire? Abbiamo avvistato un maschio solo. Si ribella, ma finirà nel mio secchio. Vai, ok, salvo. È mio prigioniero. Mi sto affezionando ai rospi che ho nel secchio. Sono animali bellissimi, preistorici, assolutamente indifesi. Si fanno toccare, prendere in mano, senza alcuna reazione. Qualcuno tenta di saltare, soprattutto i maschi. Avvistarli è difficilissimo, perché sono completamente mimetici. Chi volesse partecipare a questa fantastica esperienza che è ancora possibile, telefoni a Carlo Scoccianti. Il numero è 338-399-4177.